mai si crudeli, spargete il civil sangue, a miglior luogo, su via serbate il brando, e a più bel opre, fia che il vostro coraggio ora s'adopre. Pur che si rendi, il tutto dice, al soglio pur che giunger si possa, ogni colpa è virtù. Armi posate, e ceda il furor vostro alla pietade. Appesi nello scettro, con più giusta ragione io lo pretendo. Ed io tra voi pur anche, circondato da satrapi maggiori, aspiro ai alti onori. Dunque il ferro decida. Fia ben giusto, che dei persi innocenti il sangue si risparmi. Star le giorni enormi. Ardan vittima al sole, e dal cielo si principi. Indi colui che la figlia maggior di Ciro estinto, in sposa versi a degno, abbia per dote il regno. Io non le dissento. A piede il trono si deponga la spada, ad alta in mano si giuri il patto, e in amista congiunti stabile sia la pace.